Estate di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. When you walk through a storm, hold your head up high and don't be afraid of the dark. There's a golden sky and the sweet silver song. Sempre, a prescindere da che anno sia, è sempre il momento di Steven Gerrard. Parte Gerrard, cambia angolo, spiazza Hammer, doppietta per Steven Gerrard. Gerrard, Gerrard, il cuore del capitano, non è ancora finita, non è ancora finita, il Liverpool con l'uomo in meno rimette la situazione in parità. Gerrard, Liverpool che torna in vantaggio, proprio il suo simbolo, il suo capitano, fa esplodere la Coppa e riporta il Liverpool in semifinale. La preghiera, il ringraziamento di Dembaba, è successo l'incredibile ad Anfield, il Chelsea è in vantaggio col gol di Dembaba. E non è facile in un minuto provare a mettere insieme 17 anni di una carriera, quella di Gerrard a Liverpool, 25 anni di vita, perché poi Gerrard è del Liverpool e Liverpool è di Gerrard da quando questo straordinario giocatore era bambino. Oggi Steven Gerrard, 10 righe di un comunicato, ha detto: ve lo annuncio, lo faccio adesso per evitare che poi la squadra, il manager siano distratti da storie o speculazioni. A fine anno non rinnoverò il contratto con il Liverpool, andrò a giocare altrove perché non posso pensare di affrontare d'avversario il Liverpool e la mia storia. Grazie a tutti, chiudiamo qui. Steven Gerrard, 800 24 00 24. Siamo insieme fino alle 15. Magari aspettiamo notizie su Podolski, che nelle prossime ore potrebbe essere un giocatore dell'Inter, oppure l'esito delle visite mediche di Cerci. Però mi piaceva partire da qui. Pierluigi Pardo, ciao. Ciao, come va? Bene. Non è da tutti dirlo 6 mesi prima. Che cosa, di Gerrard? Sì. Ah, sì, sì, beh, insomma, sicuramente è una scelta elegante, diciamo. Anche nell'addio è una scelta elegante, una scelta d'amore nei confronti della sua squadra, della sua unica squadra, credo, indipendentemente da quello che potrà fare poi in futuro. Sembra chiaro che non giocherà in Inghilterra, che non andrà in nessuna squadra che è in concorrenza diretta con Liverpool. È stato un giocatore straordinario, straordinario, un po' anarchico dal punto di vista tattico, se vogliamo trovargli un difetto, ma di eccezionale spirito, uno di quei calciatori che incarna veramente lo spirito del calcio inglese, con molti pregi, anche con qualche difetto. Ad esempio, c'era un momento nella storia del calcio inglese che, facendo la somma algebrica Gerrard Lampard, pensavi che dovessero fare sfracelli quei due, e invece poi hanno fallito in nazionale. Sì, è una generazione che è rimasta senza la ribalta dell'internazionale, sì, con la maglia dell'Inghilterra. Questo forse è il grande cruccio. Arrivo a essere blasfemo, essendo io, insomma, assolutamente uno innamorato del calcio inglese e quindi assolutamente di parte, semmai però al contrario. Arrivo a dirti che forse sono stati giocatori anche un filo sopravvalutati, no? Nel senso, sopravvalutati dalla passione, dall'amore, dalla grandezza che esiste, no? Nello spirito di questo calcio. Mi sarebbe piaciuto vedere Gerrard in un'altra realtà, fuori da quel tipo di contesto, sicuramente molto rassicurante. Però, insomma, è che prima di tutto stiamo parlando di una storia d'amore, per quello che può essere ovviamente la dimensione del calcio professionistico. Cioè, stiamo parlando di una storia alla Del Piero, alla Totti, alla Maldini, alla Viesa Nessi, nella quale evidentemente c'è un legame di coinvolgimento talmente forte, e io lo dico sempre quando parliamo di storie come queste: non ci si può lamentare del calcio moderno, come sento fare da molte parti, e poi non essere inevitabilmente dalla parte di questi giocatori, perché comunque lui, Totti, Del Piero, Maldini sono diciamo degli avamposti di romanticismo del nostro gioco. Sì, storie d'amore, Pier, e intanto saluto anche Nicola Roggero, voce di Sky Fox, che ci ha raccontato per anni e farà ancora per qualche mese le gesta di Gerrard con il Liverpool. Stavamo dicendo, Nicola, ciao. Buongiorno, buongiorno a tutti, ovviamente. Tutte storie d'amore, però con un finale diverso, perché se penso al lento declino di Casillas al Real Madrid, se penso alla causa di separazione tra la Juventus e Del Piero, durata un paio di stagioni tra dispetti, video, messaggi, contratti, se penso a tante delle poche bandiere del nostro calcio che salutavano con ancora la speranza di poter allungare, ripeto, oggi Gerrard ha scritto: faccio l'annuncio adesso in modo che manager e squadra non siano distratti da nessun tipo di speculazione da qui alla fine della stagione. Cappello. Ma direi che l'ennesimo atto di amore di Gerrard Liverpool. Gerrard non è stato solo il capitano di questa squadra, ha incarnato lo spirito di quel club, era leader della Coppa, lo è stato per tutti questi anni, insieme a un altro grande protagonista che era Jamie Carragher, che veramente per tanti versi era in qualche modo un tifoso che giocava. Per lui davvero era singolare, perché Carragher da bambino era tifoso dell'Everton. Gerrard invece era proprio un Reds in assoluto, perché fin dalle giovani è stato la promessa di questa squadra, è arrivato nel 98 a 18 anni a giocare prima squadra, è diventato capitano, ha vinto una Coppa dei Campioni trascinando lui dall'inizio quella clamorosa rimonta in 6 minuti dal 3-0 al 3-3 contro il Milan, ha fatto veramente tutto per questo club. La cosa incredibile è che gli è mancato il titolo inglese, esattamente come due grandi protagonisti della storia del calcio inglese, Stanley Matthews e Bobby Moore, non hanno mai vinto il titolo in Inghilterra. E quello che è ancora più pazzesco e paradossale, con quel titolo inglese l'anno scorso il Liverpool l'ha perso, sì, per quella famosa scivolata contro il Chelsea. Davvero è stata una beffa terribile per lui. Sì, è anche una storia meravigliosa di calcio, perché non poteva essere diversamente. Se doveva perderlo, doveva perderlo in quel modo lì, Pier, perché sì, poi sì, le grandi storie hanno dentro tutto, anche le grandi delusioni. Assolutamente, non c'è nulla da aggiungere all'analisi perfetta, insomma, siamo sentimentali, siamo romantici, e credo che veramente Gerrard rappresenti per tutti noi che amiamo il calcio inglese qualcosa di straordinario, al punto che secondo me, io ho il sospetto che poi in qualche modo gli vogliamo talmente bene che forse l'abbiamo anche un po' sopravvalutato come giocatore. È stato un giocatore leggendario, un giocatore con dei numeri da attaccante giocando centrocampista, un uomo squadra. Secondo me tatticamente qualche limite lui ce l'ha avuto, cioè non è stato un giocatore troppo facilmente inquadrabile per quella che è la dimensione di una grandissima squadra. Poi non è che il Liverpool non ha vinto il campionato in questi anni per colpa sua, ci mancherebbe, anzi lui ha fatto molto per spingere in alto il livello tecnico di questa squadra. Però se facciamo un'analisi, visto che stiamo parlando di grandissimi e quindi dobbiamo collocarlo diciamo nell'elite, nel pantheon dei giocatori più importanti della storia del calcio mondiale, secondo me a me piace da morire, però forse sì, sta fuori dai primi 10. Il miglioramento era adesso, non lo so perché. Nick, dove lo mettiamo? Dentro o fuori dai primi 10? Nei primi 10 in assoluto del calcio inglese? Sì. No, direi di no. No. No, non c'è né 10 in assoluto, sono pochi. Certo. Dovete pensare che sono veramente pochi. Secondo me è nei 10 del Liverpool, questo sì. Per quello che dicevo prima, per come ha incarnato lo spirito di questa squadra, per come ha portato la fascia di capitano, ricorderete quell'altro l'anno scorso dopo la partita con il Manchester City, in cui stimolò i compagni a dire: ragazzi, ce n'è ancora 4 per avere il titolo, e non sapevo in quel momento che la beffa atroce sarebbe caduta proprio contro di lui e contro quella squadra. Quindi nei 10 del Liverpool c'è senz'altro, nei 10 del calcio inglese sono d'accordo con Pierre, mi sembra che possiamo perché, tenerlo fuori dai 10, allora. Sì, anche perché dicevate correttamente, per esempio in nazionale Gerrard non è stato il Gerrard del Liverpool, cioè c'era un momento in cui l'Inghilterra aveva a centrocampo Gerrard, Lampard e Scholes, non c'era nessuna squadra con quel centrocampo, eppure l'Inghilterra non ha mai fatto nulla. No, ma anzi è stato, come dicevo prima, è stato un motivo di incartamento per i vari CT, nel senso che chiaramente perché siamo tutti legati a Gerrard, perché è un giocatore con delle qualità e dei colpi incredibili, che però non ha avuto una costanza di rendimento, secondo me, da giocatore di livello ancora superiore, e soprattutto a livello dal punto di vista tattico è un giocatore che in nazionale ha finito per pestarsi i piedi con Lampard per non trovare una quadra. Quindi, insomma, e poi parlano i numeri, parlano una carriera straordinaria, ma che dal punto di vista dei successi di tutta quella generazione con la maglia dell'Inghilterra segna il numero zero. Vi devo chiedere un minuto di pazienza, c'è il traffico, poi torniamo, vi faccio sentire un'altra voce che viene dall'Inghilterra. Tutti convocati. With more goals, what I am shocked is that it's difficult to understand why, but the reality is that in 3 days we had two incredible decisions that punished us in a very hard way. Comandante Mourinho che ha rialzato le barricate, si è chiuso nel fortino ieri. Mourinho che è stato travolto nel derby di Londra contro il Tottenham, 5-3, partita bellissima. Mourinho che viene raggiunto in testa alla classifica dal Manchester City, cosa trova di meglio da dire? Ultime due partite, due incredibili decisioni arbitrali contro di noi. 3 giorni fa aveva parlato di una campagna contro il Chelsea. Colpa degli arbitri. 800 24 00 24, Nicola Ruggero, copione già visto. Beh, copione da sempre, cioè, ma per Mourinho va tutto bene quando vince lui è tutto regolare, gli arbitri sono perfetti, superiori, il palazzo non decide niente, il complotto non esiste. Naturalmente quando perde Mourinho allora entra in scena l'arbitro, il complotto, le decisioni, i favoritismi, eccetera eccetera. Non, niente di nuovo sotto il sole, è una persona, Mourinho, che ha preso il fair play, ne ha fatto carta straccia e con questo continua ad andare avanti. Certifica che il Chelsea probabilmente è meno corazzata di quanto abbia fatto vedere fin qui. Sì, ma No, mi sento abbastanza male, mi sembra che giustamente abbiate detto che il Chelsea forse è meno corretto di quanto visto. Esatto. Quindi, una squadra che prende 5 gol dal Tottenham forse dovrebbe fare altre riflessioni che non quelle sull'arbitro, che sono 5 gol da giustificare, neanche se l'arbitro si mette a tirare in porta ci possono essere 5 reti. Quindi Mourinho al solito distrae le attenzioni dai problemi della squadra, che evidentemente ci sono, anche se sono limitati, anche se è soltanto il Manchester City che può, insomma, in qualche modo impiacere il Chelsea, da quelli che invece è la realtà. È un passo falso su cui riflettere, però Mourinho pensa che sia meglio attirare l'attenzione su altro. Pier, poi apriamo anche il discorso, perché noi abbiamo sempre indicato il Chelsea subito alle spalle delle grandissime anche a livello di Champions League. Se il Chelsea è quello che stiamo vedendo in questo scorcio di stagione, anche la Juventus un pensiero può farcelo. Direi proprio di sì, direi no. Tornando al discorso di Mourinho, io credo che appunto sia assolutamente la solita roba, no? Cioè, ma fa parte secondo me delle qualità di questo allenatore, cioè, al di là di tutto, poi può risultare antipatico, può in certi momenti essere può confinare con la scorrettezza, no? In alcune sue uscite, nel tentativo di condizionare la stampa, gli arbitri, l'opinione pubblica, però insomma lui è il comandante in capo, e quindi in un momento di difficoltà, il primo momento di difficoltà della stagione del Chelsea, è chiaro che lui tira fuori tutte le armi, soprattutto dialettiche, che ha a disposizione per riuscire a rimettere a posto le cose, per ritrovare una quadra. E ci sta, perché l'allenatore oggi non è più semplicemente l'allenatore che 30 anni fa, non è Brian Clough, tanto per fare un esempio che credo sia particolarmente caro a me e a Nick, non è più l'allenatore degli anni 70, anni 80, è diciamo da Pesaula in poi il Petisso che allenava i giornalisti per sua stessa missione, no? Nel senso che gli dava delle notizie proprio per evitare che scrivessero cose poco chiare, come lui stesso ha raccontato nelle interviste. Insomma, ormai in questa società così mediatica l'allenatore è un allenatore che è un manager a 360 gradi. Sì, e quindi questa si vince anche importante. Così, del resto lo ha insegnato Mourinho stesso, lo ha insegnato nella prima esperienza al Chelsea, lo ha insegnato a Milano, ci ha provato anche a Madrid, gli è spesso andata bene. E quindi da un certo punto di vista dobbiamo rassegnarci, Nicola. Sarà così probabilmente anche fino a giugno. No, sì, Mourinho sarà così per sempre, fino al 2200 ragionevolmente. Diciamo che io a Mourinho preferisco mille volte quelli come Ancelotti, che sono ugualmente vincenti, sono molto più vincenti di Mourinho, eppure riescono sempre ad avere stile, ad avere classe, ad avere rispetto agli avversari, ed è per questo che insomma quando c'è Ancelotti su una panchina e Mourinho per l'altra, non so come, ma a me viene da tifare per la squadra di Ancelotti. È italiano, possiamo squadra, anche farlo per questo motivo. C'è qualche problemino con Nicola? Dimmi Nicola. No, vi sento malissimo purtroppo, non riesco a sentirvi bene. Niente, ti salutiamo, ti ringraziamo. Grazie. Ciao, grazie, ciao Nicola. Buon anno agli ascoltatori, grazie a voi. Ciao, ciao. De firmare una extensión perché non è lo che siento in questo momento, però sì cumplir il contratto come lo dije y como todos saben, lo he dicho desde el primer momento en que llegué a la Juve, lo he dicho, ¿no? Mi contrato es, me queda un año y medio, entonces es complicado salir cuando uno también está jugando bien a este nivel. Yo pienso que es difícil, pero bueno, hay que ir tranquilo y disfrutar, ¿no? No pienso ahora en volverme loco con la idea de volver, ¿no? A proposito di annunci anticipati, questo è Tevez, l'altro ieri in Argentina, che dice: ma io in questo momento non ho idea di rinnovare il contratto con la Juventus, anzi, la verità è che lui pensa nel 2016 di andare a chiudere la carriera al Boca Juniors. Mi pare che anche la reazione sia stata diversa, a proposito parallelismi. Questa secondo me è una forma, uscendo da quelli che sono i classici stereotipi da calciatore, questa è una forma di correttezza di Tevez, nel senso, stiamo parlando di un ragazzo che in questo momento, per la stagione che sta facendo, potrebbe, nel normale stereotipo calciatori procuratori, andare a battere cassa, a chiedere un rinnovo per altri 4 anni, con un aumento del 30%, lo so, falle tu le cifre, ma insomma, per quella che è la condizione sua e per quella che è la storia del calcio, il rituale dei procuratori che appena le cose vanno molto bene vanno a chiedere un'estensione di contratto, questo è un discorso, l'abbiamo sentito in lingua originale, di grandissima onestà. Cioè Tevez è uno che ha un contratto fino al 2016, che probabilmente dopo altre idee in testa, io penso al ritorno in Argentina, come sì, l'ha detto il fratello, è una scelta, era abbastanza chiaro, romantica. Sono sicuro che fino all'ultimo giorno del suo contratto alla Juve farà il 110%, perché è un professionista straordinario e lo sta dimostrando, è veramente un uomo squadra, è secondo me assieme a Higuain il giocatore più forte che c'è nel nostro campionato, quello con una dimensione, con un mercato internazionale più importante, e quindi secondo me alla fine, cioè, stiamo parlando di un contratto a tempo determinato, di uno che, voglio dire, facendo le corna, se dovesse succedere, smetterebbe di giocare, di prendere lo stipendio dopo il 2016. Il fatto che non stia lì a chiedere ogni 5 minuti il rinnovo o l'aumento, secondo me è solo una dimostrazione di professionalità, ma io ripeto, sono sicuro che se anche lui non rinnoverà, come sembra probabile, farà fino al 30 giugno del 2016 tutto quello che può fare per il bene della Juve, ed è un giocatore pazzesco. La Juve fa bene, la Juve ad accettare questa situazione, o essendo Tevez un giocatore condizionante, mi viene in mente, se ad esempio la prossima estate dovesse esserci davvero l'opportunità di fare un grande investimento su un grande attaccante, avere Tevez comunque condiziona, magari ti può portare a fare una scelta diversa, e non è detto che sia la scelta migliore. Sì, ma infatti la Juve deve pensare, cioè è più chiaro di così, secondo me, cioè, ripeto, Tevez è molto corretto, nel senso che non sta illudendo nessuno, non sta tenendo appeso nessuno, sta dicendo che dopo il 2016 molto probabilmente farà una scelta di cuore e tornerà in Argentina, e la Juve deve chiaramente, ma in assoluto, non essendo più Tevez un ragazzino, l'idea di poter andare a prendere un giocatore di prospettiva in quel ruolo è un'idea che secondo me la Juve ha a prescindere, anche se Tevez potesse rinnovare fino al 2018, perché comunque in ogni caso evidentemente lì ci sarà bisogno di energie fresche e di forze fresche, per cui non lo vedo onestamente un grande problema, e credo che sia ancora una volta, insomma, dietro al successo della Juve di questi ultimi anni ci sono queste intuizioni, perché Tevez è stato pagato relativamente poco, Vidal è stato pagato relativamente poco. Sì, è un mercato che negli ultimi anni ha funzionato, se tu pensi Tevez, Pirlo, Vidal, Pogba, sì, mettici anche Barzagli, esatto, ci metti anche Barzagli, capisci, anche se Barzagli ce ne stiamo un po' scordando perché chiaramente questa stagione non l'abbiamo mai vista, ma è stata una colonna fondamentale in questi anni, e poi fai 2 più 2 più 2 più 2 e capisci perché la Juve negli ultimi anni è stata la squadra più forte d'Italia. Certo, Antonio da Roma, 800 24 00 24, vi ripeto, se volete siamo qui fino alle 15, poi dopo la mezza parliamo anche di mercato e proviamo a dare gli aggiornamenti su quello che può essere comunque un venerdì decisivo, e se non decisivo comunque importante per tante squadre, a partire dall'Inter. Antonio da Roma. Buongiorno, grazie di avermi convocato. Eccoci. No, io sono un tifoso interista, però diciamo che alla delusione che accomuna tutti gli interisti degli ultimi anni mi aggiungo con i grossi dubbi su chi fa mercato per l'Inter. Io sull'acquisto di Podolski dico, ogni volta l'Inter è specialista per prendere le riserve delle riserve di altri campionati. Mi ricordo l'anno scorso Wallace, preso come grande terzino emergente del Chelsea in prestito, credo che adesso giochi a faccia la riserva in Svizzera, sì, o qualcosa di simile. Situazione diversa però, Antonio, rispetto a Podolski, che è un giocatore fatto finito, serve per 4 mesi per provare a inseguire il sogno del terzo posto dell'Europa League. Antonio? Sì, però voglio dire, noi avevamo una squadra costruita per Mazzarri che adorava gli esterni, e gli esterni che sono arrivati insomma sono sempre comunque arrivati come riserve di altre squadre, non ultimo Dodò. E poi facciamo i mercati faraonici di gennaio, l'anno scorso abbiamo comprato Hernanes che poi si è scoperto incompatibile con Kovacic, avevamo Braventura che per vuol dire, il Milan è stato veramente una manna dal cielo, pagato anche poco, e ci ha anche tenuto Ausilio a dire no, ma quello il Milan non è che l'ha scoperto da chissà quale posto, l'abbiamo scartato noi perché ci siamo tenuti Guarin. È il problema, Pier, di chi fa il mercato col borsellino vuoto, ne parlavamo anche un paio di giorni fa, alla fine sì. Anche i 6 milioni per Bonaventura sono troppi se non esce Guarin, cioè non è, insomma, il discorso è questo. Allora, sul discorso di Podolski è chiaramente, poi magari scalerà le posizioni, però secondo me è chiaramente una terza scelta, l'abbiamo detto anche l'altro giorno, c'era Gabbiadini, il Napoli si è mosso in anticipo, l'ha pagato ed era la prima scelta in quel ruolo lì. Poi c'è Cerci, che chiaramente è una scommessa molto interessante, perché Cerci, ce lo ricordiamo, qualche mese fa insomma in Italia faceva la differenza, e lì chiaramente c'è stato uno scippo da parte del Milan, che si è mosso meglio, ha rapporti migliori con l'Atletico Madrid ed è riuscito alla fine a convincere anche il giocatore. E Podolski è un ripiego, c'è poco da fare. Poi è un giocatore che ha avuto degli sprazzi eccezionali nella sua carriera, è un giocatore di dimensione internazionale importante, molto discontinuo, in sofferenza dell'Arsenal degli ultimi anni. Sì, è un giocatore che deve essere pronto all'uso, possibilmente dal 6 gennaio, poi vedremo, ripeto, dopo, dopo la mezza. Non è un giocatore pronto all'uso, è una scommessa. Detto questo, poi alla fine le qualità ce l'ha Podolski, ce l'ha sempre avuta, l'ha dimostrato anche in nazionale, sono un giocatore, anche nell'Arsenal l'ha dimostrato, è un giocatore con degli sprazzi, certo. L'ascoltatore non ha torto, è ovvio che non siamo di fronte a un giocatore del quale puoi avere la certezza che farà bene, che cambierà il punto all'Inter. Sarà Mancini riuscire a fare questa impresa, ma insomma Gabbiadini è un'altra cosa, ce l'abbiamo visto nella prima parte della stagione, un giocatore fatto e finito, sarebbe stato perfetto per un modulo come quello che sta pensando l'Inter. L'Avezzi neanche a parlarne, Cerci sappiamo che Mancini non è d'accordo, e alla fine arriva Podolski. Vista prima la foto di Lavezzi e Cavani di ritorno questa mattina all'aeroporto, sì. Charles de Gaulle di Parigi con Blanc che li attende, multa, e poi da questo pomeriggio, da questa sera capiremo se esiste, ammesso che esista, un margine per rivedere Lavezzi nel campionato italiano. De Laurentiis ha detto al Napoli non interessa, guadagna troppo, ha voluto andarsene lui, e comunque in attacco siamo coperti, vedremo. Ciao Pier. Ciao. A domenica, ciao. Ci racconti com'è andata questa storia con l'Inter, Milan, Inter, Milan, alla fine hai scelto Milan, è andata così? Fatemi andare, dai. Non posso, cioè, queste sono cose private, comunque io ci tenevo a vestire la maglia rossonera e le altre cose sono cose che dicevate voi, e sono felice così. Tutti convocati. Se andiamo indietro nella storia, insomma, i tedeschi all'Inter sono sempre stati molto importanti, hanno fatto benissimo, quindi se dovesse arrivare all'Inter credo che questo sia un buon biglietto da visita. come giocatore lo conosco abbastanza bene, perché comunque l'ho seguito, è un attaccante, può fare diversi ruoli in attacco, è un giocatore mancino, calcia benissimo, e poi insomma gli ultimi anni ha vinto il campionato del mondo, ha giocato all'Arsenal, poi ha giocato prima al Bayern Monaco, ancora, quindi è un giocatore con grande esperienza, con grandi qualità. Roberto Mancini, una mezz'oretta fa, microfono di Inter Channel, saluto Alfredo Pedullà, Sport Italia, ciao Alfredo. Ciao Giovanni, buon pomeriggio a voi, grazie. Leggo dal tuo sito, alfredopedullà.com, postato un'oretta fa, arrivano le conferme, svolte in arrivo nelle prossime ore, Podolski potrebbe essere alla corte di Mancini. Sì, è una svolta di ieri pomeriggio, mi risulta, perché ieri pomeriggio c'è stata un'apertura totale, tra l'altro Wenger aveva un po' traccheggiato, finto, non gli era piaciuto l'atteggiamento dell'Inter perché pensava di poter trattare direttamente con l'Inter, aveva capito prima che c'erano stati dei contatti con l'entourage. L'Inter oggi deve cercare di muoversi in una certa maniera per i problemi che ha, non avendo un grandissimo budget, sta facendo anche un po' dei miracoli per accontentare Mancini. Poi Wenger ha capito che trattenere Podolski sarebbe stata una forzatura, cioè trattenere un calciatore scontento significa poi ritrovarselo dal 3 febbraio in condizioni umorali, psicologiche non buone. Quindi credo che sia questione di ore, credo che stiano facendo di tutto, è una corsa contro il tempo per regalare Podolski, se tutto andrà bene, a Mancini già per questo match molto atteso contro la Juve. È una seconda scelta, una terza scelta, ne parlavamo prima con Pierluigi Pardo e nei giorni scorsi anche con Antonio Di Gennaro, inutile girarci intorno, Mancini voleva Cerci, c'erano stati contatti, c'era stato tutto, poi è andata come abbiamo raccontato, anche se un amico scrive al 349-238-6666, in Spagna parlano di Cerci come di un Cassano bis, sovrappeso, giocatore di poca professionalità, magari abbiamo preso un bidone, io non lo so, Alfredo, se il Milan ha preso un bidone. In Spagna hanno la lingua lunga e parlano troppo, io credo che occorra avere un po' di rispetto, quindi sinceramente in questo gossip esasperato, eccessivo ed esagerato non me la sento di entrarci. Il Milan ha fatto un'operazione importante con 0 euro praticamente, quindi complimenti al Milan. La lista di Mancini è molto chiara, da 2 mesi Lavezzi in cima, subito dopo è subentrato Cerci perché per Lavezzi sono ore delicate, la situazione è cambiata rispetto a qualche settimana fa. Podolski, Shaqiri. Podolski sta arrivando, credo che ne prenderanno un altro, vogliono regalare 2 esterni perché è chiaro che Mancini abbia spinto lì e per il suo modulo attrazione abbastanza anteriore 2 esterni offensivi importanti credo che possono dare il salto di qualità definitivo almeno per gennaio. Dopodiché ci saranno operazioni che concluderanno più avanti perché Susic se ne parla poco ma è una storia di qualche giorno fa, l'Inter l'ha bloccato, il 7 Rapaic, Milan Rapaic sarà a Milano, accompagnerà il figlio Boris che è un 97 acquistato dall'Inter la scorsa estate, c'è il Siviglia che spinge fortissimo, ma Susic ha scelto l'Inter, a costo di per l'Aiduc e a costo di essere per l'Aiduc un'operazione forse meno conveniente di 400-500 mila euro, perché il Siviglia offre 5 milioni e mezzo, un'operazione che con l'Inter si può chiudere a 5, Rapaic è un dirigente di grande spessore che ha un grande rapporto con l'Inter, anche questa è un'operazione molto ben avviata. A proposito di Lavezzi, abbiamo visto le immagini di Lavezzi scendere dall'aereo a Parigi insieme a Cavani in attesa di incontrare Blanc e i dirigenti del Paris Saint-Germain. Questa mattina De Laurentiis, a proposito di Lavezzi e Balotelli, ha detto non servono, noi in attacco siamo copertissimi. Poi ricordatevi che Lavezzi guadagna tanto, è stato lui a voler andare via, i procuratori ogni tanto si divertono a tirare fuori il nostro nome. Ma guarda, io più che un divertimento dei procuratori in questo caso parlerei di una riconoscenza e di uno scrupolo di Mazzoni, una cosa diversa per me, non sono d'accordo con De Laurentiis, giustamente dal loro punto di vista rientrare in Italia significa soprattutto inizialmente contattare il Napoli per una questione di gratitudine, perché Lavezzi a Napoli è stato bene, perché tornare in Italia significa comunque chiedere a Napoli voi sareste eventualmente interessati. Poi De Laurentiis giustamente fa un discorso molto chiaro, i cavalli di ritorno a lui non interessano, per Lavezzi ha fatto una plusvalenza, il Napoli davanti è stracoperto, deve ufficializzare Gabbiadini, ma una batteria di trequartisti, seconde punte, prime punte abbastanza, anzi molto ben assortita, ma io non posso condannare Mazzoni che dice giustamente a Napoli, eventualmente ci sareste? No, sì. Bene, allora vado da un'altra parte. La situazione comunque mi sembra molto più chiara rispetto al no totale insomma che avevamo letto. Io ti ricordo, abbiamo fatto anche delle trasmissioni, ho sempre pensato a una porta aperta, dipende dal PSG, non soltanto dalla Vetti, perché il Pocio ha già deciso da un pezzo, lui è un separato in casa, è andato in netta e chiara rotta di collisione con Blanc, non si sopportano più, ha fatto questa forzatura enorme. Allora si tratta di capire una cosa: se questa forzatura comporterà un'ammenda e una multa salatissima, e allora se il Paris Saint-Germain pensa di poter chiuderla così, poi si ritroverebbe uno straseparato, non separato in casa. Oppure ci sono i margini, perché il PSG da sempre molto duro nel trattenere anche gente in scadenza di contratto, vedi Alex e Menet della scorsa sessione di mercato, li ha fatti andare a parametro zero. Qui il Paris Saint-Germain deve decidere cosa fare di Lavezzi, perché insomma a me sembra che in generale trattenerlo contro voglia, con tutto il rispetto per lo sceicco, sia un passaggio che poi possa comportare gravi perdite. Sì, è un club che può permetterselo, lo ha fatto in passato, poi vedremo anche se l'Inter, che non ha budget e ormai ne stiamo parlando da settimane e da mesi, non rischi magari sul traguardo di farsi superare da altri, ma vale anche per Shaqiri. Si parla oggi, scrivono gli inglesi, che ad esempio Shaqiri potrebbe essere il nome su cui Liverpool punta dopo aver incassato oggi... questa mattina la questione Gerrard. Allora, intanto dobbiamo aggiungere che rispetto ad Alex, Menez, Cavani e lo stesso Verratti sono situazioni un po' diverse rispetto a quella di Del Pocio, perché Lavezzi ha proprio tirato la corda e l'ha spezzata completamente, quindi c'è una volontà molto più precisa. Quindi io fossi lo sceicco, trattenerlo contro voglia poi significherebbe, ripeto, trovarselo a febbraio con quali motivazioni? All'ora di gioco sistematicamente Blanco lo sostituisce. Allora se lui vuole continuare a fare una ripicca così, poi alla fine è una ripicca che va a ripercuotersi sul futuro del club, del Paris Saint-Germain. Shaqiri, a me risulta che oggi ci siano due incontri, contatti sia con la Juve che con l'Inter. La Juve un trequartista lo farà, aspetta di bloccare a strettissimo giro, di sbloccare Rolando, perché Rolando ha detto no a tutti e vuole la Juve ed è un'operazione abbastanza conveniente. Il primo della lista della Juve è Sneijder, perché su Sneijder si può lavorare, si può manovrare, semplicemente perché il Galatasaray ha ridimensionato tutto, avrebbe voluto dare anche Pandev, ma il Genoa non può prenderlo come extracomunitario, non può utilizzare scamotaggi, è possibile che lo prenda in estate a parametro zero, visto che Pandev ha un contratto in scadenza con opzione che quasi sicuramente il Galatasaray non risolverà. Se Sneijder e la Juve dovessero mettersi d'accordo sull'ingaggio col contributo del Galatasaray, sull'asse Shaqiri seguito da Liverpool, Atletico Madrid, Sneijder, credo che i club italiani, aspettando Lavezzi, possano divertirsi tra virgolette nelle prossime ore, nei prossimi giorni. Sì, c'è qualche margine per fare mercato. Sneijder, che questa mattina Allegri ha definito un lusso raggiungibile dalla Juventus, dicendo che è quel tipo di profilo di giocatore, anche dal punto di vista economico, che in questo momento un grande club italiano si può permettere. Detto che a me continua a sorprendere il silenzio di Mino Raiola in questi giorni, non si sente, non parla, eppure di Balotelli stanno parlando in molti. Mi ha incuriosito invece la questione Nainggolan, che so tu hai approfondito, sui conti che tornano poco. Lui dice tranquilli, l'ha scritto, si riferiva evidentemente ai tifosi della Roma, però evidentemente non è tutto chiaro ancora. Ma intanto su Balotelli, se mi consente un telegramma senza aggiungere, per carità, il virgolettato, qualcosa al virgolettato che non c'è di Raiola, e dialetticamente Raiola è barricato in casa, perché lui è sempre stato bravissimo a trovare soluzioni. Oggi è una soluzione difficile, perché è vero che a Liverpool non c'è più traccia di Balotelli, è uscito dai radar, dai giochi, da tutte le priorità del Liverpool, però è anche vero che ho piazzato sul mercato a gennaio, a quelle condizioni ci vorrebbe non un amatore, qualcosa in più. Quindi questo è molto molto importante. Nainggolan, Giulini fa il suo lavoro, dice che la metà che resta è una valutazione superiore ai 10 milioni. Adesso poi sulle valutazioni noi possiamo fare da qui fino al prossimo Capodanno e non ci mettiamo d'accordo. Sicuramente è un centrocampista importante che ha dato una resa straordinaria alla Roma, è un guerriero di qualità e quantità, la Roma farà di tutto contando sulla volontà e puntando sulla volontà di Nainggolan. È chiaro che dovrà allargare l'offerta per evitare spifferi, perché è l'ultimo anno delle compartecipazioni aperte, quindi bisognerà risolvere tutto entro il prossimo giugno, ma è normale che anticipare i tempi potrebbe essere per la Roma una necessità per evitare di arrivare in primavera inoltrata. Sì, sono i danni collaterali delle compartecipazioni, quando poi i giocatori, come nel caso di Nainggolan, fanno non bene, fanno benissimo. Grazie Alfredo. Dico. Mi permetto solo di dire che le compartecipazioni, quando tu le abolisci all'improvviso, forse dovresti avvertire gli utenti con un po' di anticipo. Se lo fai in una volta, completamente tutti in una volta, diventa una situazione molto più difficile da gestire. Grazie a te, è stato un piacere Giovanni, buona giornata a tutti. Grazie Alfredo. Alfredo Pedulla, 800240024, Marco da Roma. Marco. Eccomi qua, sono in linea. No, io mi riferivo a come avete iniziato la trasmissione, sì, sul sulla su Gerard. Sì, esattamente. E siccome dicevate questa questione del fatto che in, alla fin fine Gerard non ha mai vinto niente, allora mi veniva il paragone con Francesco Totti, col nostro capitano, insomma. Vabbè, sì, ha vinto meno Gerard di quello che forse avrebbe potuto vincere altrove. Non è vero che ha vinto nulla, ha vinto una Champions, ha vinto una Coppa UEFA. Probabilmente era un giocatore che avrebbe potuto aspirare a una carriera diversa. Però prego, Marco, però come Totti, eh? Totti è stato campione del mondo, eccetera, e comunque non me lo potete tirare fuori dai 10 dell'Italia, perché per dire, sì, no, ma non tiriamo Totti fuori dei 10 giocatori più forti d'Italia, magari se avete la classifica mandatecela, 349-238-6666, però il paragone si faceva con la scelta di entrambi di restare in un club che alla fine forse gli ha consentito di vincere un po' meno di quello che avrebbero potuto fare altrove. Ci sono Saverio d'Ascoli, Domenico da Firenze, c'è prima però il traffico. Feliz anno nuovo a todos e che sia un anno repleto di allegria e molta salute a todos. Te la cavi pure il napoletano? No, solo camma fa, voglio e basta. Tutti convocati. Saverio da Ascoli, 800-24-0024. Tanto la televisione sì. Mostra dei gol meravigliosi di Gerard. Saverio. Sì, buonasera. Eccoci. Intanto sono ad Ancona, sono in viaggio. Allora, una domanda per voi. Volevo sapere, essendo io tifosissimo del Parma, cosa ne pensate di questo nuovo Parma di cui non si capisce ancora di che morte deve morire? Speriamo che non muoia, insomma. Penso che la situazione tecnica sia abbastanza delineata, Saverio. Io credo che sia evidente che evitare la retrocessione sia un miracolo o quasi che viene affidato a Donadoni. Con i punti del Parma nessuno è mai riuscito a risalire a questo punto della stagione, Saverio. Poi sulla questione societaria io credo che si debba dare qualche mese di tempo ai nuovi proprietari, al nuovo proprietario, per provare a capire quale sia davvero la prospettiva di questo club. È caduto tutto così in fretta, la scorsa estate, da rendere difficile qualunque tipo di valutazione su quella che è stata la parabola recente del Parma. Di sicuro c'è che la prospettiva tecnica, stanno per arrivare anche altri punti di penalizzazione, è una prospettiva che porta dritti alla retrocessione. E non credo che anche un mercato fatto come quello del Sassuolo l'anno scorso, con 10, 11, 12 giocatori nuovi arrivati nel mese di gennaio, possa cambiare questa realtà. Domenico da Firenze. Sì, eccoci. Buongiorno e tanti auguri. Niente, sono tifoso del Napoli e volevo sapere, visto che il Napoli comunque prende un po' di gol in difesa, sarà più per l'organizzazione difensiva o proprio perché i difensori, cioè, sono scarsi e perché si continua a prendere attaccanti invece di difensori? Grazie, vi ascolto per radio. Hai visto oggi i 20.000 del San Paolo per l'allenamento con giro d'onore della Supercoppa Italiana, Domenico? Non ho potuto perché sono in viaggio attualmente. Oggi c'è grande fame di calcio a Napoli, oggi erano in 20.000 e passa a San Paolo per l'allenamento del Napoli. Io credo che il problema sia l'organizzazione difensiva, cioè Benitez è un allenatore che fa giocare così le sue squadre, è stato così l'anno scorso, questa stagione è in fotocopia, non sta cambiando nulla, io credo non cambierà nemmeno l'anno prossimo, sempre ammesso che Benitez continui a essere sulla panchina del Napoli. Qualche dubbio ce l'ho, a maggior ragione dopo aver letto questa mattina l'intervista di De Laurentiis al Mattino, De Laurentiis che dice: noi speriamo di andare avanti con Benitez, vogliamo che rinnovi, dovesse non farlo però ce ne faremo una ragione. Tutti in piedi al Forum, 8 secondi, sta aspettando Daniel, 7, vuole attaccare Gavel, magari per prendersi un fallo, invece il fallo non arriva, il tiro da 3 punti, di Hackett! Daniel Hackett, a un secondo e mezzo dalla fine, non è finita, ma è Caleb, con Samuel che spazza via il pallone, e Daniel Hackett porta Milano alle top 16, manda fuori il Bayern, con una prestazione fantastica nel secondo tempo, chiusa con una ciliegina che più buona non potrebbe essere. Il canestro della vittoria, un secondo e mezzo dalla fine. A qualche certezza in più certamente l'Armani, l'EA 7 Milano del basket. Ciao Geri De Rosa. Ciao, buongiorno a tutti. Ha qualche certezza in più rispetto al Napoli sicuramente, ha la certezza che questa sera, ore 21, Forum di Assago, comincia il viaggio nella seconda fase dell'Eurolega, partita contro il Novgorod, ha la certezza che questa sera è obbligatorio partire bene perché è un girone complicato, molto difficile, come spiega benissimo oggi anche Luca Banchi. Questa è sulla carta la squadra più abbordabile, è la partita che non puoi bucare. Geri. Eh sì, l'insidia vera di questa sera è proprio questa, perché visto il girone, soprattutto visto che Milano gioca in casa, questa è una partita proprio non può bucare, ma questa è una squadra che pochi conoscono, Nizhny Novgorod, una città lontana anche da Mosca, però è una squadra forte perché ha eliminato l'Unix di Gerres e Langford, giusto per citare due giocatori cari ai tifosi milanesi, che a Milano è arrivata in charter, quindi di disponibilità economica ne ha, perché sono pochissime le squadre, anche tra le più forti di Eurolega, che si permettono questo. È vero che le distanze sono enormi e che è convinta come Milano che questa sia la partita più abbordabile del girone, quindi se la gioca in trasferta è qua per vincere senza pressione addosso ed è molto pericolosa secondo me. Sì, dice Luca Banchi, se pensiamo che questa sia una squadretta, sappiate che alle spalle una metropoli pari a Milano, perché noi non siamo abituati poi a considerare che alle spalle di queste squadre, anche quelle meno conosciute come in questo caso, in realtà ci sono delle realtà importanti anche dal punto di vista numerico. Sì, infatti, giusto per dare un'idea, a Milano le sue trasferte di Eurolega, anche quelle più lontane, non le fa in charter perché il suo budget non lo prevede. Questo già rende l'idea. È una squadra poi con una grossissima identità, perché si è qualificata con due vittorie pazzesche nelle ultime due partite, a Istanbul a casa dell'Efes e in casa contro l'Unix, senza il miglior giocatore, cioè Rocesti, il giocatore che è il miglior marcatore dell'Eurolega, ex Siena, non c'era in quelle due partite. La squadra si è stretta attorno a quelli che restavano, tutti hanno reso di più e hanno colto due vittorie a cui nessuno poteva dar credito, e quindi questo dimostra che oltre ai giocatori più forti alle spalle c'è una squadra che adesso è ancora più motivata e molto più sicura dei propri mezzi. Girone difficile quello di Milano, c'è il CSKA, c'è il Fenerbahce, l'Efes, Malaga, Vittoria e poi l'Olympiakos, la greca scarsa, no? L'ha chiamata Banchi. Per scherzare, sì, perché evidentemente che, visto il calo inevitabile di Diamantidis, che comunque resta un giocatore fantastico, secondo me Spanulis è tuttora il miglior giocatore dell'Eurolega. Sì, è un girone difficile, come normale che sia se arrivi quarto, quindi all'ultimo posto disponibile per la regular season, però il CSKA è l'unica squadra imbattuta in Eurolega, nessuno ci avrebbe scommesso all'inizio. Il Fenerbahce è partito così, adesso sembra una macchina arrestabile, in più ha aggiunto Zizis diventando ancora più forte. Poi abbiamo l'Efes che è molto ambizioso e ha preso Ortel, il playmaker ex Vittoria, uno dei giocatori più interessanti dell'Eurolega. Diciamo che queste tre non sembrano raggiungibili sulla carta. Poi c'è l'Olympiakos che ha sempre Spanulis, ma l'anno scorso a Milano ha preso una severa lezione, che è la quarta, è quella insomma sulla carta su cui fare la corsa per centrare è quella attaccabile posti. Perché poi bisogna tenersene dietro almeno quattro in questo girone se sì. Si vuole andare avanti. Sì, diciamo Efes e Olympiakos sono le due grandi sulla carta su cui però Milano può fare la corsa, però è indubbio che Milano un salto di qualità lo deve fare, e siccome che arriva quest'anno come è arrivato l'anno scorso per far fare il salto di qualità, io credo che i nuovi debbano dare qualcosa in più, in particolare Brooks, fortissimo in campionato e finora anonimo in Eurolega. Credo che le fortune di Milano passino da un salto di qualità portato da Marshawn Brooks. Sì, Russia, Grecia, Turchia, Spagna, ovviamente come tutti i gironi di Eurolega, soprattutto dalla seconda fase in poi, sarà anche una maratona fisica. Milano è strutturata da questo punto di vista, Milano ha il vantaggio di avere davanti dei mesi di stagione verso i playoff in cui il suo ruolo in Italia non è in discussione, il suo ruolo di leadership, però non sarà semplice anche dal punto di vista logistico. Beh, sì, ci sono due trasferte in Russia che sono pesanti. Va aggiunto anche questo, Gentile quando si è fermato con la schiena, con i problemi che ha la schiena, tutto è successo sempre dopo una trasferta lunga in Eurolega, soffre molto i viaggi lunghi con il problema che ha. Quindi questo, visto il girone, potrebbe essere un problema se non si sistema questo aspetto fisico per Gentile. Però la squadra è lunga, è profonda, quindi da questo punto di vista Milano è attrezzata, sempre che Brooks in particolare, ma anche Kleisa, anche Sean James, insomma i nuovi su cui Milano ha fatto affidamento per allungare la squadra, riusciranno a, in questa top 16, a far salire il livello delle loro prestazioni, la continuità soprattutto, e mi riferisco soprattutto all'aspetto difensivo del tutto. Potrà magari lasciare indietro qualcosa in Italia, potrà approfittarne qualcuno, però ripeto, penso si tratti di una situazione passeggera, cioè legata ai prossimi due mesi. Questa Milano ha secondo te un respiro, un profilo europeo? Ricordiamo che l'anno scorso è arrivata un paio di canestri da poter essere al posto del Maccabi a tentare l'impresa. E a tentare di giocarsela in casa, sì, è stata davvero una grande stagione, finita in maniera sfortunata, perché tutto nasce dalla famosa gara 1 col Maccabi, che era praticamente vinta, e che comunque Langford ha la possibilità di vincere ancora con il tiro libero un secondo dalla fine, è passato l'overtime. Quelle sono cose che succedono, ma nel complesso la stagione è stata davvero molto superiore alle aspettative. Quest'anno, secondo la squadra, per l'Eurolega si è leggermente indebolita, perché Langford e Gerrard sono ci sono e sono i giocatori che hanno fatto la differenza, che hanno potuto fare la differenza. L'anno scorso sono quei giocatori che ti garantiscono o uno o l'altro 15 o 20 punti, e gli americani, insomma i nuovi di quest'anno invece in Eurolega non lo fanno. Per questo dico che se Brooks diventa vicino a quello del campionato, mi rendo conto che stiamo parlando di due mondi, forse due pianeti completamente diversi, allora però se Brooks riesce ad avvicinare quello del campionato, allora si può sorridere anche in Eurolega per i tifosi milanesi. Intanto, dando un'occhiata a quello che succede al di là dell'oceano, ci sono segnali di ripresa di Bargnani, comincia a vedersi, c'è il solito Gallinari sfortunatissimo, c'è Belinelli che leggo oggi dalla Gazzetta dello Sport vuole ripetersi, titolo NBA, tiro da tre dopo un'annata che è stata straordinaria. Noi abbiamo parlato ieri con Pianigiani e lui per il 2015 diceva: questo è l'anno in cui questa generazione di fenomeni a livello italiano deve riuscire a dare un senso alla propria carriera, alla propria grandezza e unicità anche con la nazionale. È un anno importantissimo questo, ma non solo perché qualifica le Olimpiadi, ma proprio perché averli tutti insieme sarebbe una cosa unica e forse ripetibile, visto l'età di Bargnani, visto i tanti acciacchi che alcuni di questi giocatori hanno avuto, però non basta purtroppo, perché le manifestazioni di basket per le nazionali hanno già dimostrato in passato che l'insieme dei tanti talenti non necessariamente porta al successo garantito. Il basket è uno sport in cui anche un giocatore con minor talento può essere più funzionale alla forza di una squadra, quindi dovrà essere veramente un lavoro di gruppo questo, nel quale anche le grandi stelle devono mettersi a disposizione con molta umiltà, cosa che per la verità i nostri NBA hanno fatto quando sono venuti a giocare in nazionale. Però il successo è un insieme di tantissime componenti che vanno oltre la semplice somma. Diciamo che Pianigiani si è portato avanti costruendo la base senza le stelle, e l'ultima estate da questo punto di vista è stata importante, ora serve l'ultimo passo. L'ultimo passo dipenderà anche da come saranno messe le altre squadre. Ricordiamo che per andare alle Olimpiadi direttamente bisogna arrivare in finale, e la cosa non è semplice, vista la presenza della Francia e della Spagna soprattutto, ma della Francia che avrà la fase finale in casa. Per andare poi al preolimpico bisogna arrivare nelle prime sei, quindi dalla terza alla sesta. Sono imprese difficili, anche perché poi la classica guastafeste, la Macedonia di tre anni fa, può saltare sempre fuori. Però il lavoro che è stato fatto da Pianigiani è innegabilmente buono, positivo, perché lo zoccolo duro è forte, è solido, e insomma se gli NBA saranno in forma e motivati potrà essere davvero un'estate positiva per l'Italia. Sì, sentiero stretto ma che siamo obbligati a percorrere. Grazie Geri. Grazie a tutti voi. Grazie, buon anno a tutti. Grazie a Geri De Rosa, buon anno anche a te. Ci fermiamo qui. Io ringrazio Daniele Buonamici in redazione, Gianmarco Ferronato in regia. Appuntamento venerdì, domenica, scusate, a partire dalle 17 con le solite due ore. Ciao. L'importante è che sono comunque sono arrivato, sono molto felice, quindi questo era importante per me tornare in Italia. Hai parlato con Inzaghi? Sì, sì, l'ho sentito al Milan. Arrivi in ritardo, di sei mesi ma arrivi al Milan. Sì, ho fatto il giro largo, dai. E questo era quello che volevo comunque pure in estate, quindi per me essere arrivato qui al Milan è una cosa molto importante, è un punto d'arrivo.